Capitolo 1. Il figlio del fabbro. Montagnana, anno del Signore, 1240. Il martello cadeva ritmico sull'incudine come il battito di un cuore antico, e Milo conosceva quel suono prima ancora di conoscere il proprio nome. Suo padre, Corrado, fabbro di mani grandi e schiena curva, aveva forgiato per 30 anni i ferri di cavallo, i chiodi, le lame da cucina e i cardini delle porte di mezza città. La sua bottega sorgeva a ridosso delle mura lignee, là dove il profumo di legno bruciato si mescolava a quello della terra umida e del letame delle stalle vicine. Milo aveva 14 anni e un ciuffo di capelli scuri che nessun pettine riusciva a domare. Era magro come un ramo di salice, ma le braccia, già indurite dal lavoro del mantice e dall'aiuto quotidiano al padre, tradivano una forza che i coetanei gli invidiavano in silenzio. Aveva gli occhi chiari, del colore del cielo d'inverno, e uno sguardo che gli anziani del borgo dicevano essere troppo serio per un ragazzo della sua età. «Milo!» chiamò Corrado dalla bottega, senza alzare gli occhi dal ferro che teneva con le tenaglie. «Hai portato l'acqua?» «Arrivo, padre». Il ragazzo sollevò il secchio dal pozzo nel cortile e lo trascinò dentro, dove il calore del fuoco trasformava l'aria in qualcosa di quasi solido. La bottega era piccola ma ordinata. Gli attrezzi appesi alle pareti con cura certosina, i pezzi finiti allineati su una mensola di quercia, le braci sempre vive nel grande focolare centrale. Corrado prese il secchio senza una parola e lo usò per temperare il ferro. Un sibilo, una nuvola di vapore bianco, e poi il silenzio, rotto solo dal crepitio delle braci. «Domani», disse il padre, appoggiando il martello, «vieni con me dal capitano delle guardie. Hanno bisogno di un garzone che sappia affilare le spade. Sei pronto?» Milo sentì qualcosa muoversi nel petto. Non era paura. Era qualcosa di più grande e indefinito, come l'odore dell'aria prima di un temporale. «Sono pronto», rispose. Corrado lo guardò per un lungo momento, con quegli occhi stanchi che avevano visto troppe stagioni di fatica. Poi annuì, come se avesse ricevuto la risposta giusta a una domanda che non aveva mai fatto ad alta voce. Quella notte, Milo salì sul tetto della bottega, come faceva spesso quando non riusciva a dormire. Da lassù si vedevano le mura di legno che cingevano Montagnana, alte e scure contro il cielo stellato. Torce ardevano sulle torri di guardia, piccole fiamme tremanti nel vento che saliva dalla pianura. La città dormiva. Le case erano silenziose, i vicoli deserti. Da qualche parte un cane abbaiava lontano, e poi anche quello tacque. Milo fissò l'orizzonte verso nord, dove dicevano che vivesse il Signore da Romano, colui del quale i mercanti parlavano sottovoce nelle taverne, abbassando gli occhi come se il solo nominarlo potesse portare sventura. Ezzelino. Il nome aveva il suono di una lama che scivola nel fodero. Il ragazzo non sapeva ancora che di lì a poco quel nome avrebbe cambiato ogni cosa, che quelle mura di legno che gli sembravano così solide ed eterne sarebbero diventate cenere in una sola notte, che lui, Milo, figlio di un fabbro, avrebbe dovuto scegliere se fuggire o restare a combattere per una città che non aveva ancor capito fino in fondo di amare. Per ora c'era solo la notte, le torce sulle mura, e quel senso strano nel petto che assomigliava al coraggio, ma poteva anche essere soltanto la paura di ciò che non si conosce ancora. Si addormentò sul tetto, avvolto nel mantello di lana grezza, con le stelle sopra di lui e le mura intorno, ignaro di quanto poco tempo restasse alla pace.